traffico in testa, sembra già lunedì. Quante nuvole in faccia, il cielo in HD. Sono sempre in attesa di quello che io non so. So che il mio giorno migliore è quello che vivrò. E la radio che passa una hit anni 80, 20 anni più di me. Il vento spettina soltanto i pensieri, ma te ne freghi e balli in punta di piedi finché non vedi. Vicina più a te. E poi domani, poi domani, poi domani io ti porto via con me su una cometa che si avvera. Ma te la immagini quell'atmosfera? Sembra la scena di un film. Non dire sempre che per sempre non è niente. Dimmi a domani per sempre. Nella testa, ma è perfetto così. Dentro a una tempesta suonano i Police. E la radio che passa una hit anni 80, 20 anni più di me. Il vento aspetta solamente che cadi, ma te ne freghi e balli in punta di piedi finché non. Sempre.